Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti per la vostra attenzione, grazie a Luca Giulio per la corta regia, grazie a Marco ed Eleonora di Lecco, se non vado errato, per le gradite parole. L'appuntamento rimane rinnovato per domenica prossima alla medesima ora. Ci sentiamo.